30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. David Kellerman, responsabile dei controlli finanziari della compagnia Freddie Mac, è stato trovato morto nella sua abitazione in Virginia. Potrebbe trattarsi di suicidio. Kellerman, che aveva 41 anni, era diventato il numero uno della compagnia, al centro dello scandalo per i mutui facili concessi a chi voleva comprare case. Era diventato il numero uno nel settembre scorso dopo le dimissioni del presidente Anthony Pizzel e dopo le dimissioni dell'amministratore delegato David Moffett. Kellerman lavorava per Freddie Mac da 16 anni. Buonasera e benvenuti a 30 minuti in cronaca, l'appuntamento del sabato in cui ci prendiamo il tempo di riflettere su una delle tante notizie che corrono così veloci nel nostro panorama informativo. Quella che vi ho letto è un'agenzia dei mercoledì 22 aprile, una scoperta avvenuta all'alba negli Stati Uniti, trasmessa nel primo pomeriggio europeo, di cui oggi parliamo con Alessandro Plateroti, responsabile delle pagine di Finanza e Mercati al Sole 24 Ore. Buonasera a tutti voi. Okay, one story we've been following this morning is Freddie Mac's acting chief financial officer David Kellerman was found dead in his home in the Washington D.C. Questo dunque è l'annuncio, una delle prime dirette dalla zona, dal quartiere dove abitava Kellerman. Allora Alessandro, cominciamo da questa figura, da quest'uomo. Chi era David Kellerman? David Kellerman era il tipico esempio di dirigente americano che ha dato la vita per la stessa azienda. È un fatto rarissimo, fra l'altro, perché in America la mobilità all'interno delle imprese è altissima. Nel caso di Kellerman, 16 anni trascorsi al lavoro in Freddie Mac. Freddie Mac, ricordiamolo, è la finanziaria sostanzialmente pubblica che permette di rifinanziare i mutui alle banche, quindi è un anello fondamentale nella catena del sistema finanziario o per quel che riguarda la realtà immobiliare negli Stati Uniti. E Kellerman c'è letteralmente cresciuto dentro. 16 anni, fra l'altro, con piccoli passi all'interno dell'azienda fino a trovarsi al centro di quel terremoto che è stato lo scandalo e l'esplosione appunto del buco di bilancio mostruoso nella voragine dei conti di Freddie Mac, perché questo è accaduto a quella società. Qui non parliamo di sperpero di denaro, parliamo di attività che erano state acquistate, attività finanziarie che hanno perduto drasticamente valore. Bene, Kellerman nel settembre scorso ha avuto l'occasione della sua vita. Con l'azzeramento dei vertici di Freddie Mac e l'insediamento del nuovo management, che era un management appunto deciso dalla Casa Bianca e dal Tesoro, Kellerman ha avuto la possibilità di diventare direttore finanziario. Lì noi abbiamo ancora visto questa carica di interim, ma in realtà era plenipotenziario di fatto. Ecco, l'hai detto, una scelta che di fatto arriva dalla Casa Bianca, quindi stiamo parlando anche di una scelta precisa all'interno di una struttura, di chi la conosce molto bene e di chi evidentemente non veniva ritenuto responsabile di tutta la parte negativa e che proprio la Casa Bianca voleva cancellare. Ma indubbiamente lui si occupava di contabilità, di fatto è cresciuto nell'ufficio contabilità dell'azienda di Freddie Mac fino ad quando ha assunto la carica di direttore finanziario, ma che era, diciamo così, per riparare o per gestire il dissesto che si era venuto a creare nelle gestioni precedenti. E su Freddie Mac non parliamo di una singola gestione, ma di più gestioni, tant'è vero che tutta la struttura che negli ultimi 15 anni ha gestito Freddie Mac è di fatto sotto investigazione federale. Ecco, Hunter Mill Estates. Gli estates sono, come dire, fanno parte un po' della cultura americana. Negli anni le famiglie benestanti lasciavano New York per appunto le zone intorno alla città, così hanno fatto intorno a Washington. Di fatto siamo in Virginia, ma perché Washington DC è uno stato minuscolo. Che tipo di ambiente è quello in cui abita la famiglia? Ma è un ambiente, possiamo dire così, ovattato, un ambiente fatto di single family home, come dicono gli americani, cioè case singole per una singola famiglia, grandi, belle, ovviamente quartieri residenziali con verde, bambini, un po' il sogno americano che è riuscito, l'unico forse, o forse uno dei pochissimi sogni americani che è riuscito a perpetuarsi in questi anni e a continuare a mantenere una sua identità. Certamente queste comunità sono quelle, poi fra l'altro, e questo è un po' il paradosso, sono quelle che vengono più scosse poi dagli scandali finanziari, anche perché è lì che vivono i dirigenti delle banche, delle finanziarie, degli hedge fund, sono comunità normalmente che vivono diciamo così, quasi come un indotto del sistema finanziario industriale americano. Ecco, lì viene coltivato il sogno, lì c'è anche il modello, il luogo dove si vuole arrivare legittimamente al termine o comunque durante una carriera importante. Eppure proprio lì si è consumata questa tragedia che francamente anche dal quadro che ci hai dato appare inspiegabile in termini, almeno diciamo legandolo alla grande storia di quella crisi di questi anni. Certo, appare inspiegabile e poi ricordiamo sempre che un suicidio ha sempre alla base più motivazione. È difficile dire se è stato solo per la pressione mediatica, per la pressione dell'opinione pubblica, la gente con i cartelli sotto casa sua perché alla fine dell'anno scorso aveva avuto questo bonus. La vergogna di sapere che i propri figli possono essere additati come il figlio del dirigente di Freddie Mac, la finanziaria che è costata al governo americano 50 miliardi di dollari in termini di aiuti. Questo sicuramente è stato un insieme di fattori che però convergono su una cosa: il clima che si sta respirando in questo momento intorno a chi lavora nel sistema finanziario americano o internazionale è un clima di sospetto. C'è un po' una cultura di sospetto anche in chi, nei confronti di chi non era assolutamente o non ha preso quelle decisioni che hanno sbagliate, che hanno portato poi ai dissesti societari. Hello and welcome to The Short View. I'm John Authors. We're in the middle of a quite remarkable run on the shares in Fannie Mae and Freddie Mac, the two giant US mortgage. Il clima, sicuramente ne parliamo tra un momento. Vorrei però chiederti di tornare appunto al luglio dello scorso anno in cui Freddie Mac e Fannie Mae cominciano, anzi denunciano tutta la loro fragilità e in qualche modo il mondo cambia. Che cosa è accaduto allora nel luglio dello scorso anno? Nel luglio dello scorso anno è accaduto che quell'onda che ha portato a rivedere i prezzi e il valore di tutte le attività finanziarie sottostanti il mercato immobiliare. Ricordiamo che qui non stiamo parlando solo di singoli mutui, ma di prodotti, attività finanziarie che erano collegate all'andamento dei prezzi o dei mutui nel settore immobiliare. Ecco, quella bolla che aveva permesso a società come Freddie Mac e Fannie Mae di macinare profitti, perché di fatto erano attività ad alto rendimento, rendevano e diciamo così rendevano disponibili risorse aggiuntive che erano quelle derivate dall'aumento di valore che si aggiungevano a quelle del governo per la garanzia dei mutui, e quindi hanno permesso a Freddie Mac e Fannie Mae di erogare miliardi e miliardi a garanzia dei mutui degli americani a favore delle banche, e si è creata così questa spirale. Le banche avevano più soldi per garantire i mutui che erogavano perché erano i soldi pubblici, e quindi continuavano a spingere sulla leva dei prestiti alle famiglie, soprattutto alle famiglie meno abbienti, cosiddetti subprime, appunto al di sotto della soglia media, e questo ha creato poi quella spirale negativa nel momento in cui le attività hanno perso valore. È come se fosse una spugna, questa spugna a un certo punto si è stata completamente spremuta, ma quando si è allargata pesava la metà e rendeva magari più pesante chi appunto era al di sotto del prime, chi nella società, nella vita quotidiana americana non aveva mai raggiunto, diciamo, non solo il sogno dei quartieri intorno a Washington magari destinati ai super manager, ma comunque non si era sognato di avvicinarsi. Questo bisogna tenerlo presente, perché quando poi parliamo dei subprime sembra che parliamo quasi di fatti accademici oppure ecco di solo di vicende legate al mercato finanziario. Il boom dei subprime ha permesso a milioni e milioni di famiglie americane di avere una casa. Subprime non è soltanto i titoli derivati che stanno sotto, ma è anche la possibilità per milioni di famiglie di low income, di reddito basso, medio-basso, di poter accedere e avere una prima casa loro. Purtroppo poi si è generata una spirale viziosa per cui dalla prima casa famiglie a basso reddito hanno avuto addirittura il mutuo per comprare la seconda, quando ancora non riuscivano a pagare la prima. Quindi c'è stato, ecco, diciamo così, la bolla è stata anche nelle aspettative delle famiglie, non è stata soltanto nel denaro che veniva messo in circolazione nel sistema. E quindi c'è stato un elemento di rottura. Ma diciamo così, è stato un po' un trascinamento delle politiche sociali che sono cominciate con Bill Clinton, con l'amministrazione Clinton, quando si è cominciato grande boom economico americano a porre questioni di come dare a tutti gli americani non solo il diritto alla casa ma anche il diritto al lavoro, che era un po' i grandi temi della prima amministrazione Clinton. Sembra quasi, Alessandro, che, come dire, il sogno costi caro nella società americana degli ultimi anni, perché in fondo sono tutte cose legittime: sognare una casa, sognare un lavoro. Eppure all'orizzonte, chiaramente allora non si vedeva, oggi è di fronte a noi con grande chiarezza, c'è il vuoto, c'è un baratro per molti. Purtroppo i sogni e le aspettative non hanno gli stessi tempi dei cicli economici, per cui chi entra col sogno, con il proprio sogno, alla fine di un ciclo espansivo rischia di trovarsi nel pieno di quello recessivo con la più forte esposizione. Quindi, diciamo, purtroppo chi è entrato all'inizio del boom economico americano, possiamo dire dalla fine del 92, più o meno con l'elezione di Clinton, alla fine del primo George Bush, padre ovviamente, ecco, chi ha preso quella coda lì ha potuto godere di 10-12 anni di denaro che girava, di opportunità di lavoro, perché ricordiamo che non era soltanto un'economia virtuale che si era creata, ma c'era anche un'economia reale che si era creata su quella virtuale. Pensiamo al boom dei titoli internet, in quel periodo non era soltanto un punto com, ma erano uffici, erano dipendenti, erano giovani soprattutto che avevano visto in un nuovo settore economico una grandissima opportunità di lavoro. E quel denaro di carta ha permesso di tramutare delle idee imprenditoriali in vere imprese che poi, diciamo così, purtroppo molte hanno avuto la vita breve. Ecco, dire oggi che tutto questo però è stato costruito su fondamenta molto fragili è tutto sommato retorica, a tuo avviso, perché si fa presto a dirlo. Alla fine lo vediamo, i fatti lo dimostrano. Diciamo così, quelle fondamenta, è semplice, forse, possiamo dire così. Questo, non erano molto fragili, sicuramente non erano adeguate alla struttura che gli è stata creata sopra. Questo, diciamo così, siamo andati oltre il limite di carico di quello che poteva supportare il Chiarissimo, sistema. Chiarissimo, questa indicazione anche da ingegnere. Pochi giorni fa tu hai scritto: senza un freno alla demagogia e al facile populismo, questa stagione assembleare negli Stati Uniti come in Europa rischia di trasformarsi in una stagione di terrore in cui vengono calpestati i più elementari diritti della persona. 30 minuti in cronaca. Senza un freno alla demagogia e al facile populismo, questa stagione assembleare negli Stati Uniti come in Europa rischia di trasformarsi in una stagione del terrore in cui vengono calpestati i più elementari diritti della persona. Alessandro Platerotti, che oggi è nostro ospite a 30 minuti in cronaca, bene, l'hai scritto qualche giorno fa. Parole forti, parole però che dovevano servire per un dibattito che fortunatamente si è aperto, tant'è vero che le lettere al Sole 24 Ore di condanna anche che ho subito, o che ho ricevuto, sono state molto molto forti. Sì, perché non è una posizione popolare oggi. No, è sicuramente una posizione controtendenza, ma che esprimeva una importanza di ritorno al garantismo. Non possiamo considerare sicuramente l'intero settore finanziario come un den of thieves, come un covo di ladri. Io ricordo durante gli anni '80, quando ci furono i primi scandali di Wall Street, i junk bond, Michael Milken, ecco lì si parlava del nido delle vipere, Wall Street era selvaggia. Ora, è chiaro che nel sistema finanziario il danno di un singolo può provocare delle ripercussioni molto molto vaste nella società, non soltanto nella società in cui lavora, ma nella società civile. Però sicuramente una cosa bisogna dirla, è assolutamente sbagliato mettere sotto processo non solo un settore nel suo insieme, perché uno dovrebbe anche processare chi doveva controllare che non ci fossero gli eccessi, e questo è un elemento molto importante. Si sta spostando troppo l'enfasi dalla mancanza dei controlli e della responsabilità del sistema a quelle di una generalizzazione di responsabilità individuali in un'intera categoria professionale. The arrest of Wall Street legend Bernard Madoff has clients panic that their wealth may be gone. Bernard Madoff, come noi lo leggiamo. Beh, ci sono delle figure, Madoff è sicuramente una di queste, in cui l'elemento, diciamo, dello squalo vecchio stampo anni 80 di Wall Street e del controllore si riuniscono. Bernard Madoff è stato, ha avuto un ruolo di responsabilità nel Nasdaq, è stato presidente. Lui ancora ha questa leggendaria, devo dire ormai, intervista in YouTube che circola e che viene cliccata ancora da migliaia di persone, in cui pochi mesi prima del suo arresto spiega di fronte a una platea di persone competenti che, insomma, cosa pensate che sia Wall Street, questo luogo dove ciascuno può fare ciò che crede? Non è così semplice. Se uno commette un'illegalità una volta, la seconda lo prendono. Insomma, tutto questo lui l'ha detto, l'ha ripetuto, per poi scoprire che in realtà non era così e che lui era il protagonista forse simbolico migliore di questo periodo, di questa grande truffa. Purtroppo, come spesso accade, chi conosce meglio le regole è anche il più bravo ad aggirarle, quindi in questo senso Madoff era un grandissimo esperto del meccanismo di funzionamento non solo del mercato ma anche del sistema dei controlli e delle enormi lacune che aveva. Madoff ha potuto beneficiare per perpetrare così a lungo la sua truffa, perché di tanti anni parliamo, non sono più di 10 anni in cui lui ha sostanzialmente raccolto e si è appropriato con la menzogna delle risorse dei suoi clienti. Ecco, questo sicuramente, la mancanza di controlli è stato alla base del caso Madoff, ma la SEC era stata avvisata più volte che qualcosa non tornava nella società di Madoff, ma non ha mai fatto nulla, perché Purtroppo, ecco, questa è stata io una cosa che vivendo in America molto a lungo, sempre ho spesso riscontrato. Quando c'è l'alta marea, tutte le barche salgono. Questo è un po' un proverbio che in America va sempre molto, quando si fa dei mercati, per indicare che cosa. Così, in fondo al lago, in fondo al fiume, non guarda nessuno. Nessuno guarda esattamente che cosa si è lasciato al di sotto di questa barca che saliva. Madoff è stato esattamente questo esempio. E purtroppo, dico purtroppo, ancora negli Stati Uniti riforme vere per prevenire che si ripetano casi come questo ancora non sono state attuate. Ecco, direi che questo poi è il punto. La storia di questi anni in fondo sarà scritta, voi la scrivete di fatto quotidianamente nelle pagine della Finanza del Sole 24 Ore. Potremmo spingerci ancora più indietro a Bear Stearns nel marzo del 2008, insomma i segnali per provare a trovare, come si fa nella ricerca scientifica, il segnale primigenio, ma forse è un lavoro inutile a questo punto, mentre è utile ed è importante insistere su quello che ci hai appena detto, cioè dopo tutto questo che cosa sta accadendo? È cambiato il vertice degli Stati Uniti, la nuova presidenza, le mille aspettative e sul piano delle regole? Ecco, io credo che questo sia proprio il passaggio fondamentale oggi. Se vogliamo evitare l'emotività, la ricerca a tutti i costi di un colpevole che poi non porta mai da nessuna parte, perché pensare che un funzionario, un signor Kellerman, perché ha preso un bonus che probabilmente è 10 volte quello che prende di stipendio, e quindi erano 800.000 dollari, se non ricordo male, ecco, lì se non c'è una risposta delle istituzioni in termini di riportare la fiducia e la sicurezza del mercato, e questo si fa soltanto con delle riforme importanti sia sul tema normativo, quindi delle regole, ma anche su quello della vigilanza, ecco, se non si fa questo si lascia tutto lo spazio alle strilla e alle strine d'assemblea, agli attacchi agli amministratori, ripeto, spesso ingiustificati. Ecco, ma si sta facendo qualcosa? Si sta facendo qualcosa. A livello europeo, negli ultimi giorni abbiamo assistito all'approvazione di norme importanti. E abbiamo visto ieri quella sui rating, il nuovo quadro di vigilanza sulle società di rating, che sappiamo che hanno avuto un ruolo importantissimo in molti crack aziendali e anche persino in quello di Lehman Brothers, no? Quando ne parliamo, Lehman Brothers aveva una tripla A fino al giorno prima di fallire. E quindi abbiamo guardato alle società di rating come un anello debole della catena di controllo del sistema finanziario, di controllo dell'affidabilità degli emittenti. Ecco, in questo senso l'Europa ha approvato la riforma dei rating ieri, poi è stata approvata la direttiva Solvency sulla vigilanza sul settore assicurativo 2 giorni fa. Cioè in Europa si sta cercando molto velocemente, devo dire più velocemente che in passato, di dotarci di un nuovo quadro di regole più efficienti e più efficaci per garantire che non ci siano spinte centrifughe o eccessi nel sistema finanziario. Negli Stati Uniti siamo ancora in una fase più lenta, anche perché probabilmente la complessità del dissesto americano è superiore sicuramente a quella che abbiamo vissuto in Europa e in Italia, però non c'è dubbio che l'amministrazione stia facendo cose importanti, perché dietro le grandi, ad esempio dietro alle grandi riforme che si stanno spiegando per la SEC e per la Fed, quindi anche nel tema l'equivalente alla nostra Consob della Banca d'Italia di vigilanza sui soggetti finanziari, ecco, accanto a quello si stanno facendo anche grandi interventi sul piano normativo nel mondo del credito al consumo, dove c'hanno degli abusi gravissimi ai danni dei risparmiatori e dei portatori di carte, dove addirittura gli veniva aumentato il tasso di interesse soltanto perché ritardavano di pagare la bolletta della luce, e questo dell'emittente della carta di credito. Quindi ci si sta muovendo sul piano delle regole, ma anche su quello di garantire al consumatore e al risparmiatore una maggiore tutela nei confronti degli abusi. Ecco, il consumatore ingannato, il consumatore tradito, truffato, perché oggi noi abbiamo volutamente dedicato molto spazio in qualche modo ai manager, a parlare, come dire, a sottolineare una voce anche al rischio populismo. Dall'altra parte però c'è chi paga in solido e paga a volte con la sua fortuna personale. Sull'esperienza di quello che sta accadendo, ecco, un Bernard Madoff domani potrebbe essere già in pista, diciamo, potrebbe essere di nuovo tra noi serenamente, oppure no, secondo te? Sì. Purtroppo sì. La realtà è che è così, e dico anche, aggiungo un'altra cosa, è così perché i Madoff operano di fatto in un cono d'ombra della vigilanza sui mercati. Per quale motivo? Si rivolgono a un pubblico di clienti che è una frazione del mercato del risparmio, ma è la frazione con il reddito più elevato, con le disponibilità più elevate, quindi numericamente esigua, ma in volume di investimenti molto molto elevata. Ecco, nella nostra cultura la vigilanza è stata molto più concentrata laddove hai una diffusione ampia del risparmio, e quindi i fondi comuni di investimento, le banche, piuttosto che negli hedge fund, che sono più boutique, dove si è sempre pensato che chi investe in quei soggetti o chi affida i propri soldi, i propri risparmi a quei soggetti, lo fa sapendo che sta correndo un rischio superiore a quello degli altri, perché c'è una regola base del mercato che nessuno, anzi è bene che i nostri ascoltatori lo ricordino sempre. Se qualcuno si propone come il broker che vince sempre o come l'intermediario che vince sempre, lo farebbe per se stesso e non lo farebbe per gli altri. Primo elemento. E laddove c'è la promessa di un rendimento alto, c'è sempre un rischio più elevato. Ecco, Alessandro Platerotti, in conclusione vorrei tornare un momento a questa citazione della stagione del terrore. Stagione del terrore, purtroppo la storia ne ha avuto più di una. A me viene da pensare a quella rivoluzionaria, a quella di Robespierre. Bene, lì accadde anche perché ci fu, diciamo, o così fu accusato il sovrano di allora, di un tradimento di un percorso di trasformazione. Oggi, per non tradire il percorso di trasformazione, bisogna intervenire sulle cose, impedire in qualche modo, quantomeno limitare il campo, essendo molto pragmatici, a chi in questo ambito crea dei danni molto seri. Quella, diciamo, sì, è un'espressione un po' colorita, quella della stagione del terrore, ma non è un caso, poi riflette anche questa cultura aggressiva che si sta cominciando a insinuare soprattutto nei confronti poi di dirigenti industriali, che qui non parliamo di dei banchieri di Wall Street che hanno bruciato le risorse dei loro clienti, qui stiamo parlando di dirigenti di imprese che vengono bloccati, sequestrati nei loro uffici come nuova forma di contrattazione aziendale, cioè di coercizione. Questo non è ammissibile, questo è il problema, uno dei problemi base. E quando io dico stagione del terrore, qual è il terrore? È la mancanza di sicurezza che si insinua negli amministratori, nei dirigenti di società, laddove l'opinione pubblica è portata a giustificare comportamenti che sono al limite della legalità. Grazie ad Alessandro Platerotti, grazie di essere stato con noi a 30 minuti in cronaca. Lo ricordo, 30 minuti chiocciola radio24.it. Questa, come tutte le altre trasmissioni di Radio 24, le ritrovate su radio24.it. Un saluto e una buona fine settimana a tutti voi.